il più importante e primo comandamento. La proposizione espressa nel titolo di queste riflessioni non è nuova. Molto probabilmente per chi ha una certa dimestichezza con la scrittura penserà subito al comandamento di amare Dio o a quello di amare il prossimo. Ma le cose non stanno così. Leggiamo nel Vangelo di Marco, nelle Bibbie Revisione Diodati 1991 e nella Nuova Riveduta 1994. Allora uno degli scribi che aveva udita la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: «Qual è il primo comandamento di tutti?» E Gesù gli rispose: «Il primo comandamento di tutti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi». Marco 12, 28-31. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non ci è nessun altro comandamento maggiore di questi». Marco 12, 28-31. Le due versioni mettono in evidenza un primo aspetto. Il primo e il più importante comandamento non è amare Dio o il prossimo. La Diodati, fedele al testo greco, dopo aver tradotto «ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore», aggiunge «e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore», mentre la Nuova Riveduta aggiunge «ama dunque». Il comandamento di amare Dio e il prossimo è preceduto da un altro imperativo: «ascolta». Il primo e il più importante comandamento è dunque quello di ascoltare. In seguito vi è l'ordine di «amare Dio e il prossimo». Questa precisazione mette il dito in una delle più grandi piaghe del cristianesimo e della vita del cristiano. L'ordine di ascoltare, come comandamento primario messo in evidenza da Gesù, non si rivela come un fulmine a ciel sereno. Esso è stato il tema frequente dei profeti dell'Antico Patto. Tra tutti i profeti spicca il messaggio di Geremia. Ecco un suggestivo passaggio in uno dei suoi rimproveri. Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno, dicendo: «Ascoltate le parole di questo patto e parlate agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Di loro, così, dice l'Eterno, il Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto, che io comandai ai vostri padri il giorno in cui li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce e fate queste cose in base a tutto ciò che vi comando, allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, affinché io possa adempiere il giuramento che feci ai vostri padri di dare loro un paese dove scorre latte e miele, come oggi avviene. Io risposi e dissi: così sia, o Eterno. Allora l'Eterno mi disse: proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Poiché io ho insistentemente esortato i vostri padri dal giorno che li ho fatti uscire dal paese d'Egitto fino a questo giorno, li ho esortati con urgenza, dicendo: ascoltate la mia voce. Essi però non l'hanno ascoltata né prestarono orecchio, ma camminarono ciascuno secondo la caparbietà del loro cuore malvagio. Perciò io farò venire su di loro tutte le cose dette in questo patto che avevo comandato loro di osservare, ma che non osservarono». Geremia 11, 1-8. Un messaggio del genere non poteva avere fraintendimenti. Il patto di Dio con il suo popolo era quello che esso doveva ascoltare. Era vero che Dio aveva dato numerosissime leggi civili e cerimoniali, ma tutte queste regole avevano lo scopo di suscitare uno spirito di ascolto. Perché Dio voleva che il popolo ascoltasse? Perché la legge che egli aveva data non era fine a se stessa, ma serviva per comprendere il volere di Dio? Ma la volontà di Dio non è forse espressa nella sua legge? Sì e no. Attraverso la legge Israele aveva compreso ciò che era santo e profano. C'erano giorni santi, recipienti santi, luoghi santi. Ma Dio stava insegnando attraverso queste regole non tanto cos'erano le cose e i luoghi santi, ma che Egli era santo. Dio aveva ordinato di non maledire il sordo, però la sua volontà non era circoscritta a non maledire il sordo, ma che nessun uomo parlasse male di qualcuno non presente. Dio aveva ordinato la circoncisione, ma non era tanto la circoncisione nella carne che Egli voleva, quanto quella del cuore. Noi siamo cristiani evangelici. Come tali siamo fieri che la nostra fede sia basata sulla parola di Dio, che l'osserviamo cercando di non imitare sia i religiosi che gli atei. Vi è però un errore in tutto questo. Limitarci ad osservare ciò che è scritto non scorgendo lo spirito della legge. La parola di Dio deve essere intesa come un precettore, un insegnante, un maestro, per comprendere la volontà di Dio. Chi non considera la scrittura come un mezzo per comprendere e compiere la volontà di Dio, è destinato a ricevere una condanna da parte del legislatore. Noi evangelici leggiamo la Bibbia, preghiamo, andiamo al culto, facciamo delle feste cristiane con il pericolo di sentirci dire da parte di Dio: io odio, disprezzo le vostre feste, non provo piacere nelle vostre solenni assemblee. Anche se mi offrite i vostri olocausti e le vostre oblazioni di cibo, io non le gradirò, né riguarderò con favore i sacrifici di ringraziamento di bestie grasse. Allontana da me il rumore dei tuoi canti, perché non voglio udire la musica delle tue arpe. Ma scorra il diritto come acqua e la giustizia come un corso d'acqua perenne. Osea 5, 21-24. Il popolo di Israele aveva commesso il peccato per eccellenza, non ascoltava la voce di Dio. Si era limitato ad osservare strettamente ogni regola, ogni comandamento, senza però coglierne lo spirito. Erano in relazione con un complesso di regole anziché con una persona. Per questo è stato giudicato pesantemente da Dio. Se nel leggere la parola di Dio vogliamo solo ingrassare il nostro cervello, senza avere l'obiettivo di osservarla, se nel pregare non vi è il desiderio di ricevere nuove prospettive da parte di Dio, se nel prendere il pane non ci ricordiamo che Gesù è morto, per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro, 2 Co. 5 e un quarto, noi non siamo in ascolto. Abbiamo fallito lo scopo per cui siamo stati creati. Pensiamo un attimo ai primi discepoli di Gesù. Il messaggio del Maestro non era nuovo, non proveniva da un altro pianeta, ma era comunque rivoluzionario. Gesù disse alla donna samaritana: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo». Perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Giovanni 4. Dio aveva ordinato di costruire il Tempio, aveva promesso che avrebbe abitato in esso. Erano passati 2000 anni, e gli ebrei continuavano giustamente a pregare nel Tempio perché vi era la presenza del Signore. Ecco che ora Gesù rivoluziona l'espressione religiosa ebraica millenaria. Il Tempio non era più necessario. Se i discepoli non avessero ascoltato questo vecchio e nuovo messaggio, come avrebbero potuto rivoluzionare il mondo con la loro fede? Se gli apostoli avessero detto: «Ma ormai la rivelazione è completata, sono millenni che facciamo così. Perché dobbiamo cambiare?» Erano domande più che lecite, eppure essi si adeguarono al nuovo modo di professare la loro fede in Dio. Avevano compreso che il Tempio non era fine a se stesso, ma un mezzo per incontrare Dio. Se oggi Dio dicesse: «Non trovatevi più nelle sale per leggere la parola di Dio, pregare, ricordare la mia morte, ma nelle case», come risponderemmo noi? Abbiamo uno spirito di ascolto? Siamo pronti a cambiare metodi e abitudini perché l'Evangelo possa essere ascoltato e compreso da tutti. Non sono certamente contrario che i cristiani si trovino in un locale, ma se venisse una persecuzione, sapranno adattarsi alla nuova situazione. Le riunioni di chiesa possono essere un aiuto per fortificarci, ma possono diventare anche il peggior ostacolo per la nostra crescita se il centro della nostra fede sono le riunioni e non Cristo. Se in un prossimo futuro i nostri sistemi verranno duramente scossi, come potremo sussistere se non abbiamo l'orecchio esercitato ad ascoltare la voce di Dio? Dobbiamo stare molto attenti da cosa facciamo dipendere la nostra vita spirituale e la presenza di Dio. Se la nostra vita cristiana ha il suo punto focale nel locale di culto e nelle attività di chiesa, progettiamo una relazione personale costruttiva e ristoratrice con la persona vivente di Gesù Cristo. La disciplina dell'ascolto è veramente una potenza. Ascoltare è il presupposto per diventare figli di Dio. Quando non ero ancora nato di nuovo, leggevo la parola di Dio. C'erano verità che non comprendevo, e nel mio cuore dicevo, Signore, sono io che non comprendo. Il mio orecchio era attento e Dio mi ha parlato. Ascoltare è anche il presupposto per una vita cristiana abbondante e fruttuosa. Ascoltare Dio non è tanto interrogarlo per avere una rapida soluzione alle nostre questioni, quanto prestare l'orecchio al suo appello. Conosco credenti che non fanno altro che raccontare come Dio ha parlato al momento della loro conversione, hanno posto quell'esperienza in un cassetto e la conservano gelosamente come una reliquia. Se l'ascolto della voce di Dio rimane un'esperienza lontana rilegata solo al momento della conversione, si vive tragicamente nel passato. Le testimonianze assomigliano a dei discorsi funebri più che a esperienze di vita, perché è durante il funerale che si ricorda ciò che il morto ha fatto. Noi abbiamo dei problemi che sembrano irrisolvibili. Perché? Perché non ascoltiamo la voce di Dio. I mezzi che Dio usa per parlare sono innumerevoli. Non possiamo sminuirli considerando la Scrittura l'unico mezzo usato da Dio per comunicare con noi. Le circostanze della vita rivelano la volontà di Dio. Geremia capitolo 13 e 35. I profeti parlano da parte di Dio. Atti 11 e 28. I fratelli e le sorelle al culto parlano da parte di Dio. Corinzi 14. Un religioso incredulo può parlare da parte di Dio. Giovanni 11. Dio rivela la sua volontà anche agli increduli e parla tramite loro. Daniele 2 e Giudici 7 e 13. Dio parla ai mariti tramite le mogli, Genesi 21. Dio parla tramite i bambini, 2 Re. La coscienza è uno strumento della voce di Dio, Giovanni 8:9. Dio parla tramite gli animali, Numeri 22 e Giobbe 12. Gli astri parlano da parte di Dio, Salmo 19. Ciò che rende difficile comprendere la volontà di Dio è che Egli spesso non parla secondo i nostri canoni e le nostre aspettative. Noi sintonizziamo l'ascolto su di una frequenza e Dio ne usa un'altra. Abramo ha creduto alla promessa di Dio di diventare padre, ma in un contesto normale. Non che lui avesse avuto 100 anni e sua moglie non potesse avere figli. Pietro era disposto a morire per il maestro, ma come eroe, non come martire. Una sorella in fede mi confidava che, fin da bambina, la sua più grande aspirazione era quella di diventare una missionaria dove non vi è civiltà, ma non avrebbe mai pensato di diventare tale facendo la moglie con un uomo incivile. È difficile comprendere la voce di Dio. Passare dal nostro pensiero a quello di Dio è un grande salto. Sì, usolio Dio parla. Ecugi, una sua caratteristica. Se Dio non parlasse, non sarebbe più il Dio della parola. Non ascoltarlo equivale a mancargli di rispetto e fallire lo scopo della nostra vita. Uno dei maggiori problemi nella Chiesa è che non crediamo più in un Dio personale, vivente. Spesso Dio per noi è un complesso di norme e dottrine, ma il legislatore non è un libro pieno di prescrizioni. E una persona che cerca chi vuole ascoltarlo perché, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. 1 Corinzi 2:9. E amare Dio è ascoltarlo. Ascoltarlo e attendere. Qualcuno forse desidererebbe udire direttamente la voce di Dio per potergli ubbidire. Abbiamo mai considerato che il normale modo di Dio per parlare non è quello diretto? Quando Mosè parlava da parte di Dio al Faraone, lo faceva tramite suo fratello Aaronne. Quando Naaman volle essere guarito dalla lebbra andò da Eliseo, pensando che questo sarebbe uscito e lo avrebbe toccato. Ma il profeta non solo non lo volle ricevere, ma mandò un servo a dirgli di buttarsi nel Giordano. Dio parlava al re Davide tramite i profeti. Volere sentire direttamente la voce di Dio può essere un atto di incredulità. Il nostro progresso spirituale dipende non tanto dal fare, quanto dall'udire. Il dramma del credente è che può fare molto senza avere udito la voce di Dio. La tragedia di un figlio di Dio è che il suo benessere spirituale dipende dall'udire la parola di Cristo, ma egli non ha allenato le sue orecchie all'ascolto. Noi siamo chiamati ad essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. Romani 12:1 a 3. Purtroppo è possibile per un credente avere un cuore nuovo senza avere una mente nuova. Sei figli. Il rinnovamento del cuore dal rinnovamento della mente. Di Dio sapessero discernere, confiderebbero molto meno nel loro discernimento e darebbero più spazio all'ascolto. Senza l'ascolto di uno spirito di preghiera non possiamo avere nuove visioni, nuovi obiettivi, nuove conoscenze di Dio e della vita. Nel leggere la vita dell'uomo secondo il cuore di Dio, Davide, notiamo come egli in ogni circostanza chiedesse all'Eterno qual era la sua volontà. Ciò non significa che il credente debba chiedere nevroticamente ogni istante a Dio qual è la sua volontà, ma deve rimanere sempre in ascolto per comprendere di volta in volta il giusto comportamento. La vita cristiana non è uno stereotipo. Chi non sa ascoltare non può evolversi. Facciamo nostro l'invito di Dio, altrimenti per noi non vi sarà progresso spirituale. Venite, adoriamo e inchiniamoci. Inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo e il gregge di cui Egli si prende cura. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove i padri vostri mi tentarono e mi misero alla prova, anche se avevano visto le mie opere. Per 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Salmo 95:6-11. Dio ci invita ad ascoltare ed ubbidire alla sua voce per entrare nel suo riposo. Se la nostra vita non è vissuta all'insegna del riposo di Dio, dobbiamo rivedere la nostra fede. Un uomo forte non è colui che chiude gli occhi sulle proprie debolezze, ma chi le riconosce? Una vita vissuta con ansietà e tensione non glorifica il Dio che si cura di noi. Chi non ascolta la voce di Dio ha una religione al posto di una relazione personale. Camminerà in luoghi sdrucciolevoli, Geremia 23:12, ma chi ha l'orecchio attento per raccogliere le sue parole abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male, Proverbi 1:33. Se non hai uno spirito di ascolto non hai il diritto di testimoniare della tua fede. Se sei disposto ad udire la voce di Dio, è scritto per te: l'uomo che ascolta potrà sempre parlare. Proverbi 21:28. Ascolta Israele. Questo è il grande e primo comandamento. Ogni altra espressione della vita cristiana che non sia condita da questo atteggiamento risulta nulla agli occhi di Dio. Parla, perché il tuo servo ascolta. 1 Samuele 3:10, ottobre 2000, Ellero.